E buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo tornati, siamo i Mozilla Bros qui su Radio Ciroma 105.7. E siamo tornati con il nostro consueto ritardo. Stiamo aspettando ancora un pezzo di formazione, ma comincio ad introdurvi. 4.000 pezzi di formazione. Hai ragione. No, un pezzo che vale 4.000, direi. 2 metri pezzi di formazione. E avete capito benissimo tutti voi a chi ci stiamo riferendo. Ma nel frattempo passo a presentarvi la formazione con cui ci stiamo appropinquando ad iniziare questa trasmissione blues nerd. In regia ci sono i nostri Ono Sendai e Cicillo, che sta mangiando come un porco e bevendo vino, devo dire, molto buono, come al solito. E ringrazierei Rocco per questo vino. E ringrazialo pure tu. Un grandissimo vino, grazie tantissimo. Eppure per la pancetta, visto che stamattina ti sei sciafucato. Sì, Freddy. No, Rocco, nostro amico della P2. Sì, e Freddy. E poi invece nel Blues Side di Ciroma ci sono i nostri Pentorana Boys, che stanno anche loro masticando e smangiucchiando. Ci hanno detto delle critiche sul fatto che non parlate abbastanza forte e chiaro. Quindi forte e chiaro, così va bene, ciao. Poppe. Ma è colpa dei microfoni. Sì, quello che avete appena sentito era Paolo, mentre adesso ha parlato Stefano. Colpa del microfono perché lo usate all'orifizio sbagliato. Ce lo insegna Lorenzo. Vigliacchi. È proprio Lorenzo quello che sta presentando. Ma non hai citato uno. Questa formazione. Manca il nostro Garulf. No, aspetta. Al di là di Garulf. Sì. Stiamo tutti aspettando il nostro Andrea altissimo 4000 blues. E come sorpresa di questa trasmissione, fin dall'inizio si è presentato la nostra guest star d'eccezione, il nostro cantante, che adesso ci farà un saluto. No, adesso saluta. Deglutisce e saluta. Saluta. Deglutisce e saluta. Senza che lasci il telefono. C'è una ciambotta che voglio un po' di capire. Saluta in radio i nostri ascoltatori. Vabbè. Dici qualcosa. Deglutisce e saluta. Sta deglutendo. Okay. Però sento imboccato naso nel frattempo. Questo è il problema. Ma anche con la bocca piena va bene. Va bene anche con la bocca piena. Buonasera. Buonasera, il caratteristico buonasera del cantante. Direi che mentre aspettiamo Andrea Blues possiamo partire col primo pezzaccio, che è tratto da un film, dalla colonna sonora di un film che mi ha proprio suggerito Andrea Blues. Per cui partiamo con questo pezzaccio. Sì, di Giovanni Vai Oltre questa canzone. Questo è difficile, questo è proprio difficile. No, aspetta, che cazzo dici? Ma anche Giovanni Passa. Ah no, aspetta, questa è la seconda. Hai proprio sbagliato. Perché il cursore... Fail. Il cursore si è posizionato lì. Il cursore ci... Cursore. No, la colpa è del cursore. Partiamo con questo pezzaggio blues. Cazzate a parte, via. Ok. Call me Willie the one and only Willie Brown. what you'll find. Call me dog, but I ain't blind. Smokehouse man is back in town. Call me up when your love comes down. Call me Willie, the one and only Willie Brown. Yeah, I'm loving all you women, two by two. Ain't gonna stop till the loving is through. Gets too hot, wait your turn. Baby, with your fiddle while smokehouse burns. Call me Willie, the one and only Willie Brown. Yeah, call me Willie. Blind dog frozen, smokehouse brown. Call me Willie, the one and only Willie Brown. Yeah. Che blues, direbbe Andrea Blues. A questo non, punto non ancora pervenuto. Non ancora pervenuto, per cui caniato. E qualcun altro direbbe: bah, che blues. Che cosa dire di questo pezzaccio? Intanto vorrei sapere se vi è piaciuto, perché è un pezzo di pura armonica, appunto dedicato a lui. Era per la scorsa trasmissione, l'abbiamo salvato, che abbiamo parlato troppo, abbiamo mandato poca musica. È proprio dedicato ad Andrea Blues, che ancora manca e spero arrivi presto. Questo pezzaccio è tratto dalla colonna sonora di un film, come dicevo prima, che colonna sonora degli Incroci dovrebbe essere. Crossroads. Vabbè, era proprio brutta. Sporchi inglesi. In realtà nel film Crossroads, che in italiano è stato tradotto con un banalissimo Mississippi Adventures. E qua io invocherei le bestemmie di Cicillo, perché ma anche la traduzione di Cicillo invocherei. Cioè, Crossroad, il film si chiama Crossroad, l'hanno trasformato in Mississippi Adventures. Questo perché? Perché nel film si vede... Sono dei porci. Che mi sembra un'ottima ipotesi. Va bene, grazie Paolo. Ma perché nel film è... Si racconta della storia di Willie Brown e di un ragazzo, Willie Brown, un armonicista che appunto ha suonato, l'armonicista del glorioso Robert Johnson, che voi mi potete benissimo dire tutto su Robert Johnson, però non vi chiedo nulla. Qual era il nome? Stiamo trattenendo. Roberto... No, solo il nome. Robert. Hai visto. Sei preparato, bravo. Sa... Insomma, narra le vicende di questo armonicista che, come Robert Johnson, si dice abbia fatto il famosissimo patto col diavolo, che avviene proprio al crossroad, all'incrocio, che però chiaramente viene tradotto in un italiano crocicchio, il che è proprio veramente da poveri uomini. Chi? Crocicchio, il crocicchio, sai cos'è il crocicchio? L'incrocio. Al di là degli armonici c'era questo... grandissimo chitarrista che ha composto insieme all'attore che ha interpretato Willie Brown, il cui nome è Joe Seneca. L'autore di questa colonna sonora è Ray Cooder, un grandissimo chitarrista. Colui che avete appena ascoltato, quindi, cioè. Più o meno, diciamo che le note erano sue insieme in parte, cioè. Perché comunque accompagnando e doppiando quindi la chitarra di chi affianca Willie Brown, ossia il grandissimo Ralph Macchio, che nel film si chiama Eugene Malone, una cosa del genere. Ralph Macchio è il ragazzo che ha fatto Karate Kid. Lo ricorderete per Karate Kid sicuramente. È proprio lui. Gran film, eh? Gran bei film. Di merda. E esatto. Qui invece fa le veci di un giovane studente di chitarra. Le veci sicuramente. Le veci di un giovane studente di chitarra che scopre dalla musica classica il blues. Se ne innamora. E quindi parte con questo Willie Brown alla volta del Mississippi. E prende l'IDS. E come dargli i torti? Tra... No. Sull'IDS? No, diciamo, scopre il blues e fa quello che vorremmo fare tutti noi giovani bluesmen di Cosenza, ossia scappare di qui per andare nella patria del blues. Andare un po' prendere a fanculo e andare a prendere l'AIDS. Andare nel Mississippi a prendere il blues. Che è un virus molto, molto, molto più contagioso. Ma cosa possiamo dire di Ray Cooder? Che doppia effettivamente la chitarra di questo giovane Ralph Macchio. Beh, che riesce a farlo comunque perché è un grande chitarrista, che anche grazie all'uso dello slide, che era si sente nell'usarlo, diciamo. Era uno dei vecchi blues dello slide, no? Il vecchio blues. Sì, ma questo evidenzia anche la pigrizia di Ralph Macchio, che due cazzo di accordi se le poteva imparare. Comunque. Diciamo che per me che ho visto il film non erano proprio due cazzo di accordi. Però era bella musica. Magari potendo manderemo altri pezzi tratti da questa colonna sonora. Non so. Cosa? What? No, io Ciccino mi fa gesti strani, proprio stranissimi. Tipo, non posso sballare i segreti della regia. Ola, tutti quanti, no? Quali segreti della regia? Io avevo capito una danza diversa. Dal gesto che tipo le Hawaii. Ma non avete potuto sentire lo slide sulle sue vecchie Fender Stratocaster? Perché lui ama suonare Fender Stratocaster, possibilmente negli anni 60. Anche ampiamente modificate. Qua la nostra fonte di informazioni riporta che sono ampiamente modificate. Soprattutto una Telecaster che ha un suono ben più caldo della Stratocaster. Forse più orientato al blues. Infatti anche nel film, sì, anche nel film il giovane Eugene, talent boy Eugene, vende un orologio, penso tipo un Rolex, per una Stratocaster. Una Telecaster rubato. No, ce l'aveva di famiglia per tenere i soldi. Scappa, è arrivato Andrea Blues, forse, speriamo. Bene. Se non è Montesano, speriamo di no. Speriamo di no, va bene, dai. Praticamente svende questo orologio per comprarsi una chitarra. Cioè un gesto veramente epico. Del blues. Proprio del blues. Insomma, il nostro Ray Cooder ci stupisce con questa colonna sonora. Non ha scritto chiaramente solo quella di Crossroad, ma anche altre colonne sonore, tipo The Long Riders, ossia tradotto in italiano I Cavalieri delle Lunghe Ombre. Va bene. Un film di Wim Wenders che si chiama Paris, Texas. E insomma, altre raccolte, altri pezzi per altre colonne sonore. Nel frattempo è arrivato l'altissimo. Prego di farci un saluto in radio, visto che sei arrivato. Kitzhaller. In ritardo, ma sempre presente. Ovviamente. Più o meno. Diciamo che spero che presente fin quando non sei arrivato. Cioè, presente fin dopo. Cioè, fin prima. Spero che stiate tenendo il livello del blues. Abbiamo appena passato alto. Una canzone dedicata a te. Che, siccome non l'hai sentita perché non stavi sentendo la radio, Girom. Cantamela tu. Non te la posso cantare perché è bella strumentale. Insomma, quella di Willie Brown. Stavamo appunto parlando di Crossroad. Di un po' di Ray Cooder. Perché comunque va citato, dato che il l'autore. Crocevia del diavolo. Un crocicchio, come direbbero. Un crocicchio. Tipo quello che cazzotta, no, Cicci? Ecco qua, ritorna con la sua cosentinità e il suo... Come sempre. E il suo charm da 4.002 metri. E direi che dopo aver parlato di Crossroad e Ray Cooder possiamo passare al prossimo pezzo. Ma Giovanni vai oltre, quindi andiamo. Giovanni stavolta vai. C'è proprio... Vai Giovanni. Che magari presenterei io, siccome sono arrivato fresco. E fallo. Tanto dopo devono parlare i maledetti nerd. E adesso ci presentiamo addirittura... col botto con Skip James e questa è Devil Got My Woman. Professionale, non c'è nient'altro da dire. Livelli da radio DJ. Oh, nothing but it Dottor, una firmetta. Una firmetta ci volesse. E rieccoci in onda. Mentre chi si avvinazza, chi si fa i cazzi suoi, chi mangia, chi non sente un cazzo. Siamo di nuovo qui, Mozilla Bros. Vogliamo ricordare questa non dire l'offiate. Che siamo solo a 20 minuti dall'inizio della trasmissione. I nostri contatti, non come l'altra volta che l'abbiamo fatto alla fine, che non hanno molto senso. Fallo fare da Andrea Blues. 4.000 contatti, vieni, vieni. No, aspetta, che lui non si ricorda mai il numero. Vabbè, cioè, il numero si ricorda solo una cosa che è caratteristica della zona, ossia. Il numero me lo ricordo. 4000. No. 166 e conti fino a 28250. Per chiamare direttamente in sede. Te lo ricordi o l'hai letto sul telefono? Perché devi sempre svelare tutto, Lorenzo Blu? Se lo ricordo. Sì. Lo ricorda perché l'ha letto sul telefono. Ma rileggilo. Fantastico. Rileggilo che non l'ha sentito nessuno. Memoria visiva. Vai. Ridillo. Che non... 0984 28 250. Vi risponderà la nostra centralinista Ono Sendai. Professionale. Ono Sendai. Passiamo alle news nerd. Che diciamo? Che dici? Dobbiamo dire i contatti. Ma... Ah, il Conso Blues c'ha sempre stanzia da prestazione. È un po' così, Marco. Perché, per esempio, potrete contattarci anche su Twitter, all'account Twitter. Mozilla Bros. Poi siamo in replica, lo vogliamo dire che siamo in replica su Radio Transizione di Fase ogni lunedì alle 8. Siamo sicuri? Alle 20, non alle 8. E ci vogliamo anche scusare con Gigizu che non abbiamo caricato la puntata, ma perché l'abbiamo scordata in radio. Lo doveva fare Cicci. Complimenti. Cicci, devi fare una cazzo di cosa per la trasmissione, non la fai. No, scusa, non ho capito. Devi fare una cazzo di cosa per la trasmissione, non la fai. Perché l'altra volta, se voi siete stati fino alla fine all'ascolto di questa meravigliosa trasmissione, c'è stato un momento che mi ha scombussato completamente. Ma che ci ha scombussato? È stato il momento del cantante che ha improvvisato una grandiosa poesia di 5 minuti. Il mio cervello si è andato a farsi fottere. Quindi appena è finita la cosa ho chiuso e me ne sono andato. Vabbè, ma è colpa del cantante, eh? No, è una di quelle cose che non si dimenticano mai. Bravissimo. Mai. Ma che fanno dimenticare. Ma che fanno dimenticare Cicillo che deve caricare la puntata. Perché Paolo vuole mangiare il microfono? È un Sennheiser. Non so. Vabbè, comunque. Le patatine non sono... Ma comunque, dai, basta con sto cazzo di blues, sta musica. Ma parliamo invece di cose serie. Perché? Come avete fatto voi ad aver avuto ad aver avuto accesso a tutta questa musica? Ah, ditelo, che l'ha scaricata. No, l'ho comprata. Non è vero, i vinili. Sì, i vinili. L'avete scaricata. E proprio di copyright e pirateria si è parlato settimana scorsa all'università, vero Cicci? Sì, l'avevamo detto nella scorsa puntata che ci sarebbe stato questo seminario, che a dire il vero noi temevamo sbilanciato tutto da un lato, ma ha avuto risvolti, diciamo, entusiasmanti fenomenali. E a volte grotteschi, potremmo dire. Tant'è che dopo questo seminario mi sono stato sentito dire che... Vabbè, dopo aver conosciuto questo tizio della polizia postale di Cosenza posso fare quello che voglio. Cioè... No, vabbè, diciamo che comunque mentre che sostenevano le tesi appunto del file sharing, del libero scambio e denunciavano, diciamo, il modello vecchio e dannoso del copyright, c'erano fior fior di avvocati o comunque gente dalla parlantina svelta. Purtroppo per i sostenitori del copyright, sostenere invece l'altro lato della tesi, ci stava sto tipo della CIA di Napoli, che veramente tipo terza media rubata sotto banco o scaricata dai mule. Chi te? Ecco appunto. Sì. Ecco appunto uno dei pezzi chiave è stato detto. Se non sbaglio era una cosa del tipo, ecco appunto perché la SIAE ha comunque delle regole piuttosto anziché chiare, cioè. Bene. O abbastanza molto chiare, perché ha sparato perle anche. Quindi diciamo abbastanza che, molto chiare. Ecco, in buona sostanza può darsi, ma io non, cioè, diciamo, non ci riesco questo, ubriaco a dire questo cose. Lo escludo, che lui abbia anche detto cose interessanti riguardo la SIAE, ma io non sono riuscito proprio a seguirla perché, diciamo, il suo pessimo italiano mi ha completamente azzerato il cervello. E tu sei di Napoli, quindi in gergo lo dovresti capire. No, voglio, ma quello non è che parlava dialetto. Quello parlava, non lo so, no, davvero non vi so dire. Italiota. Uno che parlava. Si approccia alla grammatica in quel momento e metteva assieme parole. Non vi so non dire. Non era una lingua, erano dei versi gutturali. Poi, per esempio, vabbè, c'era uno dell'associazione Fonici Italiani che comunque effettivamente era gente pure parecchio triste, cioè dicevano le cose ma lo vedevano che non ci credevano, che sapevano anche loro che ormai era tutto finito. Mentre dall'altro lato c'è per esempio anche stato un grandissimo Francione, doveva chiamarsi se non sbaglio, Francione ex già magistrato, come dicevano loro, che... è passato, diciamo, è balzato gli onori alla cronaca per la sua storica nel 2001, se non sbaglio, sentenza contro il copyright. Ora, noi qua non stiamo a riassumervi la cosa perché sarebbe un peccato, visto che comunque su YouTube sono già caricati i video, basta cercare convegno copyright unical o qualcosa di simile. Sì, appunto Francione durante questo suo spettacolo di cabaret che ha fatto, perché voglio non avete proprio capito, le risate che Francione era il napoletano. Sì, era questo giudice che ha fatto questa sentenza anti-copyright, anti-pirateria, insomma, in sostanza ha scagionato quattro ambulanti che vendevano appunto film in mezzo alla strada. Che poi dicendo, non ci vedono molto buono, capito? Ma lascia stare questo, diciamo che... Ovviamente lui è andato a difenderli, queste persone qui, dicendo che loro lo facevano per necessità. Ha trovato questo solito cavillo giudiziario, sfinteri penetrati a parte. Insomma, questi quattro immigrati sono stati scagionati da questa accusa. Posso fare un commento? Sugli sfinteri, lo so. No, ovvi. Sul magistrato. Ah? Cioè, eri morto suo. No, ma era abbastanza, no. Lui diceva sempre che era un artista prestato alla magistratura, diciamo. E comunque poi ha fatto, a mio modesto avviso, un bellissimo discorso su il diritto d'autore e sull'arte, diciamo, con la A maiuscola, appunto, che dovrebbe essere svincolata da queste povere e inutili leggi di mercato. Sì, assolutamente sì. Metteva in risalto quello che è il valore culturale delle opere che vengono prodotte da musicisti, poeti e qualsiasi altro appunto artista sviluppa le proprie... Sì, sto mangiando, quello ride. Ma perché sei un porco, no. Voglio dire. Vabbè, ma il vinello deve scendere con qualcosa, no, mi imbriaco. No, stanno mangiando un po' tutti. Dove mi giro, vedo tarallini. C'è una giambotta allucinante. Comunque, e lui c'ha un tarallino in mano. Lui pure sta masticando. Lo so che è uno di quelli lunghi, quindi non andrà. C'è a Radio Giroma, Taragiuzza Bino. Comunque, stavamo dicendo, ha fatto un bellissimo intervento su quella che è la sua idea. Beh, in molte parti ha trovato, almeno personalmente, ho trovato condivisibile quello che diceva. E appunto slegava completamente dal punto di vista economico quello che sono le pubblicazioni dei vari artisti. rispetto a quello che è il profondo valore culturale che appunto le pubblicazioni hanno. Si pensi per esempio agli amanuensi, perché questa è la grossa ipocrisia: la cultura che diciamo è arrivata fino a non noi si privatizza. È figlia, no, vabbè, a parte che non si privatizza, ma ci sono riusciti. Ma è figlia di quella che è il, diciamo, millenni di pirateria, due millenni di pirateria essenzialmente, perché noi la matematica per come la conosciamo, la letteratura e tutto il resto è frutto delle copiature fatte agli amanuensi in tempi bui della nostra umanità. E quindi insomma, infatti la filologia dovrebbe essere la pirateria di un tempo. Esatto, ma anche senza pensare al fatto che non c'è un'opera che è uscita e diceva pum, tipo wow, mai visto nulla di prima di simile. Pensiamo, che ne so, a Dante con la Divina Commedia, che comunque per esempio ha attinto a Omero e a Ulisse, per dirti, giusto, per dirne solo due, perché ce ne sarebbe proprio da parlare. Sì, veramente era uno solo. Vabbè, comunque io tipo a tal proposito, tra l'altro, mi è arrivato a casa il Kindle che avevo ordinato e mi si è aperto proprio un mondo, perché finalmente posso anche scaricare libri. Ti sei aperto? Un mondo. Ah, ok. Dove però? Guarda, proprio questo umorismo da asilo di Lorenzo Blues. Giustamente parlavamo di cultura e se è uscito così Lorenzo Blues, capì? Comunque dicevo, uno dei primi libri che ho scaricato era stato uno che tra l'altro non violava nemmeno alcuna legge a scaricarlo, perché era L'elogio della pirateria di Carlo Gubitosa, che avevo da un sacco di tempo sul computer ma non avevo mai letto, e ho letto, era molto illuminante. Infatti mi sa che tipo magari dopo la pausa musicale ne parleremo, leggeremo qualche estratto, lo collegheremo con qualche news. Sì, è proprio. Soprattutto potremmo parlare dell'idea che hai dato in macchina venendo qui in radio, no? Non è il fatto della pennetta USB? Sì, no, poi quella è una sorpresa. Sì. Ah, e ultima cosa riguardo al convegno, tipo c'era anche la tipa della polizia postale di Cosenza che era un po' disperata perché la nuova versione di Emule offusca gli IP. Niente. Oh mio Dio. Quindi non riescono a fare le indagini perché non c'hanno sti IP che sono offuscati. Quindi capiscici, tu che ti imparanoi usare Tor, Darknet e cose semplici. Basta, cioè, scaricare Emule. Basta offuscare, magari in base a 64 l'IP. Allora, diciamo che non vogliamo tranquillizzare troppo i nostri ascoltatori, ma sicuramente quello che abbiamo sentito noi è stato... Bah, non c'è un aggettivo, forse è bah. Riassume tutto quanto. Però hanno detto anche che non vogliono arrestare i singoli che scaricano musica. Però bah. Però lo fanno lo stesso. Ah, ecco. Bene. Quindi in buona sostanza dormiremo sonni tranquilli allora. Che significa non vogliono arrestare i singoli che scaricano? No, dicono che le azioni legali che stanno intraprendendo, diciamo, in questi ultimi anni non sono più rivolte a colpire i singoli, quindi diciamo gli utenti noi. Finali, sì, noi, tutti noi, 6 miliardi di... No, 6 miliardi no, però insomma... 3, una tre sì, abbondanti. Ma se, quelli ne che sono i vari, i vari fornitori di servizi, quindi gli ISP, eccetera, eccetera. Comunque, possiamo andare avanti. Ma direi che... Ciance... lo sa... Bando alle ciance di Gelo. Allora mo continuiamo a parlare all'infinito. Ciancio alle bande. Direi che c'è il terzo pezzo. O bando alle ciance. O ciolla al Cristo. Io voto per questo. Me la siete cercata, comunque sappiate. Grazie Marco per questa bellissima immagine. Prego. Direi ci che ritorniamo con un grandissimo blues. Ma lo presenti tu, Lorenzo. Che diciamo che quell'immagine è un remix. Non può essere coperta da copyright, perché ho preso l'immagine del Cristo e di una ciolla e le unite. A proposito di Cristo e ciolla, io inviterei Cicillo a raccontarmi. No, devo trovare l'audio e ve lo passo. No, dai, è una promessa che faccio. No, perché non la racconto nello stesso modo, mi dispiace. Cioè non rende nello stesso modo questa cosa. Vi prometto che trovo il file. Sei proprio viscido. Trovo il file e adesso la durante la adesso pausa. Lo cerco. E dici pure il nome del pezzo che stiamo per mandare. Muddy Waters. Questo qua è un pezzaccio, ragazzi. Muddy Acque. Acque fango. Acque fango. Acque fango. No, lo volevo dire perché magari. E questo è I Can Be Satisfied. Keep blue. Thank you. Italy. Won't be back no more. Going back down south, child, don't you wanna go? Woman, I'm trouble. I be all good now. Well, babe, I just can't be satisfied, and I just can't keep on. Well, I feel like snapping pistol in your face. I'm gonna let some graveyard lord be her resting place. Woman, I'm trouble. I be all wood mine. Well, baby, I can't never be satisfied, and I just can't keep on. I didn't see not a doggone thing. Woman, I was trouble. I was all wood mine. Well, honey, I could never be satisfied, and I just couldn't keep up. Well, I know my little babe, she gon' jump and shout. That old train delayed me, Lord, and I come walking out. I be trouble. I be all ruined by. Well, honey, ain't no way to work for me to be satisfied, and I just can't keep on dying. Rientriamo e ritorniamo alla grande con Eric Clapton. Questo è Mean Old Frisco e abbiamo ascoltato un grandissimo fango, acque fangose, acque di fango, fangose, giusto per gettare del fango su una leggenda. Ovviamente non lo facciamo, si fa solo per ti farà le scherzare dell'inferno. No, sto scherzando, ti voglio bene. Però comunque è una leggenda del blues come Muddy Waters, non andrebbe mai offesa neanche per scherzo. Che appunto dici? Però forse noi ce lo possiamo pure permettere, perché non lo facciamo per amicizia. Oramai c'è un rapporto speciale fra noi e Muddy, no? Sì, infatti sì. Fra noi e Muddy. Andiamoci piano con le accuse. E così la pensa Cicillo, lo rispettiamo. No. È giusto, ognuno. Questa no, era... ma scherzavo, non è che potevo rispettare. I can be satisfied. Però possiamo rispettare Muddy Waters. Come la canzone. Lo rispettiamo. Ne vogliamo parlare brevemente, magari con i Petronas Blues Boys. Però guarda, mi fa un po' strano vederti nel nerd side della trasmissione. Perché non te ne torni giù con l'amico? Va bene. No, ma non è nerd. Cioè può anche sembrare nerd con la camicetta e il maglioncino. Ma mi hanno offerto asilo, è nerd, non potevo esimermi. Guarda, tu sei nerd così come mia nonna è Marilyn Manson. Io non mi serve. Me lo fai fare un autografo? Saluto e chi parente. Insomma, questa qua è un pezzaccio. Diciamo che forse è stato il pezzaccio d'esordio di Muddy Waters, perché questo è stato scritto senza Willie Dixon. E soprattutto è stato scritto quando ci fu l'esplosione di Muddy Waters grazie alla Chess Records. Oh no, Andrea? Che dici? Che dici? No, Andrea non ha sentito un cazzo. E lo solo fatto più. No, stavamo discutendo del fatto che a nostra memoria non c'è mai stato un pezzo passato che tu non hai detto che è un pezzaccio. Cioè non possiamo inflazionare così pezzaccio. L'ho usato... Questa è a garanzia sul fatto che noi passiamo solo pezzacci. Esatto, capisci? Cioè è di base che uno mette su Ciroma. Tra l'altro l'altra volta l'ascoltavamo con Cicillo e... il gesto che sta facendo con la testa è proprio emblematico. La sta scuotendo... Con vigore, diciamo. Sto facendo un gesto pure con la mano, ma non ne parliamo. Sorvoliamo. Meno male che non lo posso vedere. Direi che innalziamo il livello della musica di Ciro. Io posso fieramente dirlo, che orgogliosamente dirlo, che innalziamo il livello della musica di Ciro. Ti assumi la responsabilità dovuta. E anche tu. Modestamente parlando innalziamo il morale. Sì, modestamente parlando, sentendo Ciroma, io direi che siamo il Viagra dell'istogramma di Ciroma. Passiamo grandi pezzacci. Tu non ridere nel microfono. No, perché vedo la faccia di Cicillo e c'è poco da fare. È stato lui a dire queste cose, per cui no, il Viagra io non ho detto niente. Voi io non mi mettete. Vabbè, il tuo maglioncino dice il contrario. Dice Viagra. Che schifo. Insomma, questo qua era I Can Be Satisfied. Andrea, che cosa mi puoi dire di I Can Be Satisfied? Ma sicuramente è un pezzaccio, giusto per dire qualcosa di diverso. E fin qua c'eravamo arrivati. Diciamo che come hai detto tu, è un pezzo emblematico. Accio. Emblematico di quello che è la leggenda, di quello che è tutto il retroscena dietro la grande figura di Muddy Waters. Sicuramente forse un suo trampolino di lancio, no? È dei primi album, se non sbaglio. È proprio uno dei singoli in cui, con cui ha sfondato, perché no, un singolo che si sentiva alla radio. Sentirsi all'epoca alla radio, insomma, era indice di prestigio, no? E ricordiamo che una volta, forse le cose non sono tanto cambiate, c'erano i produttori, i proprietari delle case discografiche che andavano proprio a pagare le radio, esatto, per passare la propria musica e sponsorizzarsi in questo modo. C'è il pizzo dell'epoca, no? La tangente, se vogliamo, magari esagerando un po'. Figurati se è cambiata adesso la cosa. Adesso pagano i produttori televisivi per farli apparire addirittura nelle splendide vesti. Però c'è da dire, non so se è il caso di Muddy Waters, probabilmente no. No, sicuramente no. Però un sacco di musica è emersa anche grazie, tipo, sempre per ricollegarci alla pirateria, le prime radio pirata. Tipo quella famosissima nave nelle coste dell'Inghilterra è stata una delle, forse la prima, se non sbaglio, stazione a passare uno dei pezzi dei Rolling Stones, che prima non venivano passati in radio perché troppo trasgressivi, troppo strani, esatto, nuovi. Esatto. Mo c'è internet, volendo, chi vuole. Mo c'è internet, ma di Waters si trova una lira, insomma. Approfitto sul grande assist di Ono Sendai per dire che i Rolling Stones prendono il nome da una canzone di Muddy Waters, esatto. Waters, che è Rolling Stone. Questa questo canzone pochi che lo sanno e va sottolineato. Questa canzone che avete sentito si può trovare, cioè la storia di questa canzone comunque di Muddy Waters si può trovare in un altro film. Diciamo che oggi siamo pure diventati un po' cineforum, diciamo. Perché prima con Crossroad, adesso con Cadillac Records, che abbiamo nominato un sacco di volte, c'è proprio questa canzone che fa vedere come ha dato sia stato un trampolino di lancio per Muddy Waters, perché l'ha fatto conoscere sia grazie anche a Leonard Chess e alla Chess Records. E alla Chess Records, che poi, vabbè, viene se ne narra la storia nel film. Cioè davvero dalle stalle alle stelle, letteralmente. Esatto, perché prima Muddy Waters comunque era un contadino, insomma. Un negro. Ciao. No, l'è sempre stato un negro. Però no, era proprio un negro in quegli anni là in America. Sì, esatto. Poi possiamo dire schiavo, Non esageriamo se diciamo schiavo. No, assolutamente, era uno schiavo. Tecnicamente non esisteva la schiavitù all'epoca. Tecnicamente no, però era sfruttato, l'ha pagato e fatto costretto a lavorare dall'alba al tramonto in un campo. Che fosse di cotone, di grano, di tabacco, no? Questo non ci interessa. Vabbè, come noi con i nuovi contratti alla fine. Esatto. Soltanto che, cioè, lì la gente che era comunque in comunità, a un certo punto che cosa faceva? Stava zappando la terra e cominciava a cantare. E lì è nato il blues. La cosa più bella che c'è. Manna fermata, che cazzo. Stiamo parlando di 20 minuti, insomma, c'è un pochino di break. La cosa bella non direi, perché comunque senti la sofferenza, però questa sofferenza che si allevia notevolmente con il canto. Ma il dolore non è nient'altro che sofferenza che se ne va. Quindi quando canti ti senti meglio. Ci piglia nota. Facciamo un tweet con sta cosa. Aspetta un attimo. Un attimo. Vai, ridillo. Sì, dicevo che il dolore non è nient'altro che sofferenza che va via. Smettetela, per favore. Che momento. Perché soprattutto che momento. Voi due, Cicillo e Marco, siete patetici. Andrea dice cose sagge. No, ma noi abbiamo messo per un giusto sfondo. Della sua età. No, perché non è la spiegazione scientifica sul dolore. Ma insomma, diciamo che questo pezzo, I Can Be Satisfied, è anche, diciamo, come un termine che abbiamo usato più volte adesso, emblematico del fatto che la sofferenza comunque è qualcosa che appartiene soprattutto alla musica che passiamo. Però, così come Andrea ha detto, il dolore e sofferenza che se ne va. Vabbè, passiamo al prossimo pezzo che, come voi nerd vi siete presi un bluesman, noi bluesman diciamo ci siamo presi un po' di nerdaggine. Ci avete? Ce ne abbiamo tre. No, abbiamo da dire qualcosa sulla SIAE. Cazzi? Siamo tre uomini. Omofobia. Belli grossi pure. E quindi passiamo al prossimo pezzo. Passalo tu, dai. Lo passo io? Ciccillo, te lo passo io? No. Tu non me lo passerai di sicuro. Sì. E la tua mano invece, Andrea, sta cominciando. Chiunque lo voglia passato può chiamare allo 0984 28250. E questo è Johnny Copeland con Blues and Nothing, dedicato al nostro amico Francesco che è qui in radio. Yeah. Giovanni Paesaggio di Cop. Sceni panico qui. Che blues. Che pezzaccio. Cristo. mi raccomando. Cosa sono queste parole? Sei un volgare, esatto. Sei un volgare. Che fortunatamente i nostri ascoltatori non hanno sentito. Meno male, va. C'è gente veramente beggiore al mondo. Questa era John Copeland, giusto per informare. Johnny Copeland. Bene, rientriamo. E la canzone non dice come si chiama. L'abbiamo detta prima. Quindi stai zitto. Oppure ve le scaricate tutte e troverete il titolo di questa canzone. Esatto. Traduco in italiano che è più incisivo, forse. Vai. Il blues non è niente tranne che un uomo senza una donna. Wow. Insomma, roba allegra. Ci ha aggiunto tu, però. L'ultima parte ci ha aggiunto tu. No, no, no, è così. No, se tu ti senti la canzone, magari la senti pure tu, zi. Se senti la canzone dirà pure avevo un pesciolino in Canada, che cazzo vuol dire? Non si chiama così la canzone. Smettila e vai via adesso, dopo questa cosa che hai detto di andare via. No, l'aveva in Mississippi il pesciolino. Poi si è fatto uno storione di 2,5 metri e se n'è andato via. Sai chi grigliato? Non lo poteva. Secondo me non era proprio uno storione. E chi è tipo più un pesce spada. Un pesce spada. Ci ha fatto un bel frappè da dare ai nostri amici nerd. Lorenzo Blues è ossessionato alle forme falliche, comunque. C'è da dire. Però torniamo al lato nerd. Anche oggi il lato nerd è soft. Perché diciamo, io vabbè, avevo scaricato e letto questo bellissimo libro di Carlo Gubitosa, che diciamo tratta vari tantissimi aspetti della pirateria, dalla pirateria musicale alla pirateria della salute, appunto dei farmaci, oppure alla street art, passando alla pirateria dell'etere, cioè è veramente splendido. E adesso volevamo leggere volevamo leggere un piccolissimo estratto, meglio far leggere al nostro cantante un piccolissimo estratto chiamato Tesi numero 2, pirateria musicale. Buonasera, ora vi leggo questa cosa. Ascoltate. La pirateria musicale è uno strumento di accesso universale alla cultura, che dà a chiunque la possibilità di incontrare e conoscere popoli e tradizioni, musicali esclusi dalla mercificazione dei saperi, incompatibili con le regole del profitto e assenti dai cataloghi delle grandi case discografiche. L'accesso alla cultura è un diritto inalienabile. La musica è uno strumento di cultura e pertanto l'accesso alla musica è un diritto inalienabile. La pirateria della fruizione musicale, ovvero la copia di musica ad uso personale e senza scopo di lucro, è un diritto fondamentale che va pienamente tutelato. Di fronte al quale il diritto al profitto delle case discografiche deve necessariamente soccombere e farsi da parte. L'esercizio di questo diritto favorisce anche gli autori di musica, alimentando la circolazione delle loro opere e aprendo nuovi canali di diffusione che permettono una migliore espressione della creatività. Buona serata. A dopo. Che dire, cioè, oltre alla voce possente del cantante che ha fatto risuonare questo inno alla pirateria, appunto, cioè, il libro si incentra proprio sul valore della pirateria e del contributo che questo dà all'umanità intera. Noi abbiamo fatto leggere questo estratto che riguarda la pirateria musicale. Pensiamo che per esempio questa trasmissione non sarebbe stata possibile senza appunto la pirateria musicale, o comunque pensiamo a quanto più poveri a livello di cultura musicale saremmo senza il mezzo della pirateria. Sì, no, assolutamente. Tant'è vero che, come fanno i nostri grandissimi bluesmen, a ogni canzone fanno quelle che sono notizie relative agli autori, al contesto storico in cui vivevano. Quindi comunque la musica, al di là del brano in sé, rappresenta cultura a 360 gradi. È un momento di crescita, così come i libri e tutto il resto, per tutti noi. E tra l'altro, ovviamente in questo libro si sviscerano tutte le varie argomentazioni che fanno capire quanto stupide siano le motivazioni invece che vanno a urlare chi vuole difendere i modelli come il copyright, ovvero che la pirateria uccide la creatività, la musica e stronzate varie, che storicamente è sempre stato appunto smentito questo. Come ogni stronzate. Sì, evoluzione tecnologica, c'è sempre stato il cretino di turno. Addirittura durante quel seminario uno aveva fatto l'esempio dei produttori di ghiaccio, cioè i tipi che andavano a pigliare blocchi di ghiaccio e le vendevano, che si erano scagliati contro i frigoriferi, appunto. Cioè, appunto, cioè, rettitudine proprio cura corsi, Anna Lira. No? Sì, poi scopriamo che questa forma di copyright sulla musica nasce proprio appunto già nei primi del Novecento, quando c'erano i primi piani automatici, diciamo, che suonavano per conto loro. Un tipo che adesso non ricordo chi si chiama era andato al Senato americano a dire che questi piani addirittura avrebbero portato a far sparire le corde vocali dall'evoluzione umana. Oh mio Dio. È catastrofico. Vabbè, per te forse ci sta, perché per un certo periodo di tempo hai parlato tramite sintetizzatore digitale dal tuo computer. Ma quella era una scelta politica. Collegato all'impianto di filodiffusione della P2. No, comunque quello che emerge in maniera abbastanza forte e inequivocabile è il fatto che attraverso il diritto d'autore stanno tentando di difendere quelli che sono ovviamente i profitti economici delle case discografiche. Esatto. Perché non riescono, chi sostiene, diciamo, chi è a favore del diritto d'autore, non riesce a fare un discorso senza nominare appunto il profitto che, fanno le case discografiche. Ma diciamo che le due cose a questa gentaglia. Sì. Consentirci senso non ci riuscirete mai a fermarci. No, ma al di là di questo, che è sacrosanto e quanto è giusto, quello che in realtà vorrei dire io, che il diritto d'autore e profitto sono due cose completamente slegate, sono due discorsi che andrebbero trattati in maniera completamente separata. Come appunto ha letto bene Andrea, qui si parla di cultura, anzi Andrea il cantante, sì. Si parla di cultura, di diffusione dei propri messaggi, cioè è anche la cosa che diceva bene il giudice nel seminario. Un artista dovrebbe essere contento che i propri contenuti vengano diffusi nel maggior numero, diciamo, di copie possibili. E infatti, basta fare un paragone, secondo me è semplice ma efficace. Cioè, pensate alla cultura com'era negli anni del Medioevo. Era in mano a 30 persone su 10 milioni e infatti tutti quanti grufolavano nel fango tipo porci, tipo Ciccillo. Ma vabbè, anche al di là di questo c'è da dire che appunto il copyright va sempre a difendere i profitti delle case discografiche, che non sono i profitti degli autori. Infatti sempre l'ex giudice Francione parlava di questo sistema piramidale dove appunto chi si iscrive alla SIAE va a tutelare soltanto chi è già arrivato in cima. Un autore emergente ha pochissime garanzie dalla SIAE o pubblicità. Anzi, tanto è vero che erano ben oltre 5.000 gli artisti che qualche settimana fa si erano affidati al meccanismo di pubblicità di Pirate Bay, che ricordiamo sempre per ignoranza nel nostro paese è filtrato, ma che potete raggiungere tranquillamente attraverso qualsiasi proxy. Comunque, cioè, c'è da dire che veramente la SIAE non ne combina una giusta. Da poco, infatti, è stato acquisito quello che è stato instaurato, quello che si chiama l'equo compenso. Equo, sì. Equissimo. Che praticamente su ogni dispositivo di memorizzazione venduto in Italia, quindi dalle videocassette alle schede micro SD, quindi tutti i dispositivi di memorizzazione, quindi i computer, hard disk, pendrive, computer, sono forniti DVD, di hard disk, pendrive, telefoni, cellulari. Tutto ciò su cui si può memorizzare informazione. Forse anche un foglio di carta. No, vabbè. Cioè, viene venduto a un prezzo maggiore proprio perché viene assunto a priori che questo dispositivo venga usato per memorizzare roba piratata. Cioè, è una cosa davvero da pazzi. No, è tipo come il pizzo per la mafia. Sono dei porci. Sì, esatto. La guerra preventiva è quello che commentavo io durante il seminario, appunto, dopo c'era questo della CIA a cui era stata fatta una domanda del genere. Non trova contraddittorio una cosa del genere? Alla fine lui non è che ha risposto, ha detto semplicemente, ha spiegato come hai fatto tu, Lore, quello che è, diciamo, questo equo, ormai in Italia l'equità è diventata la parola d'ordine, basta che ti metti a 90 e sei equo, diciamo, rispondi ai canoni. Tu fai proprio il mercatino equo e solidale. Io, non a caso, diciamo, io sono dei massimi esponenti. Quindi, proprio tu a 90, insomma. In ogni caso si tratta di una cosa che tu fai a priori. Che ne sai, magari io voglio fare delle foto mie, ma non è, no, come, diciamo, come non viene proprio preso fotografo in considerazione. Si sa che tu appena ti compri un hard disk, sì, lo userai per scaricarti la musica. Appena a questo punto mi viene da dire, ti fai un, diciamo, un contratto a DSL e lo fai per scaricarti la musica. Quindi mi sa che non vorrei dare un'idea ai nostri simpatici scienziati, ma probabilmente speriamo che non ci ascolti. Probabilmente, diciamo, faranno anche una scelta del genere. Nel momento in cui ti fai un contratto a DSL, ti fanno pagare una tassa sulla SIAE, perché più sicuramente che altro, lo sai cosa? Ci succede questa cosa, la colpa è la tua. No, sì. Io vorrei spezzare una lancia in favore di Cicillo, anche se un'arancia. No, le arance le abbiamo spezzate oggi pomeriggio ed erano pure buone, perché esatto, sono di Rossano, ci tengo a precisarlo. Vabbè. E tu ti si bevi tutti l'arancia. Stringi. Che cazzo dovevo dire? Mi sono perso. Non lo sappiamo. No, la lancia in favore di... Che cazzo hai detto, zio? La tassa sulla DSL. Ah, non è una tassa sulla DSL. Cioè, i vigliacchi che cosa fanno? Riducono il traffico peer-to-peer. Quindi se state parlando su Skype, se state usando... Vabbè, no, Skype magari è Echiga. Va bene, scusate. Ma anche se state usando Emule per scaricare qualcosa non protetto a copyright. Lascia stare Emule, perché magari uno... No, anche sì, qui sì, è molto giusto, contraddittorio. È giusto. Cioè, il peer-to-peer non è il male. È come dire, chiudiamo le strade perché ci fanno le corse clandestine. È una cazzata. Infatti, cioè, cerchiamo di... È assurdo, perché tipo chiudono giochi tipo League of Legends è basato sul peer-to-peer. Quindi toglierebbero la droga a Luca Bru. No! E questo è un male, perché lui deve cibarsi. Farebbe ricadere la sua... Poi cioè qualsiasi cosa peer-to-peer, ossia client server decentralizzato, verrebbe praticamente a chiudersi. Cioè, infatti sì, col traffico ridotto è assurdo. Comunque penso che la gente, comunque, che ascolti un po', un'idea se l'è fatta. Io riconsiglio di nuovo questo bellissimo libro, liberamente scaricabile. Magari ringraziate l'autore mandandogli una cartolina o roba da mangiare. Nel libro c'è scritto tutto quello che vorrebbe ricevere. Sì, io avevo pensato a un panaro con satizie. Pure per esempio un altro aspetto della pirateria di cui parla è per esempio la pirateria della salute, ovvero la pirateria farmaceutica. Perché una delle più grandi aziende criminali sono quelle farmaceutiche, che per esempio brevettano appunto queste medicine. Pensiamo per esempio alle cure contro il decorso dell'AIDS. Per esempio brevettano queste cose facendole pagare un sacco. Addirittura costano di più nei paesi più poveri come l'Africa rispetto per esempio ai paesi come l'Europa. Tra l'altro fanno questo per appunto profitto, facendo morire milioni di persone ogni anno. E tra l'altro anche in modo ipocrita, perché comunque quelle scoperte sono state possibili solo perché prima generazioni di medici, chimici, scienziati hanno condiviso numerose scoperte. Però anche qui ci stanno parecchie forme di pirateria, vi consiglio di leggere il libro per approfondire. Ma noi abbiamo anche una news al riguardo, perché che si ricollega alle stampanti 3D e apre nuove frontiere fantastiche, vero Cicci? Sì, diciamo, delle stampanti 3D avevamo parlato un po' di tempo fa, avevamo fatto pure, diciamo, questa simpatica battuta sulla ricorsione, perché le stampanti 3D sono in grado di autocrearsi volendo, no? Basta, diciamo... Ma posso dire l'ultima cosa sulla SIAE? Che secondo me è veramente interessante, premerebbe su chi ci ascolta, sulle poche persone che ci ascoltano. È stato stimato che da tipo Confindustria e altra gentaglia simile, quindi pure gente che gli fa l'orlo, diciamo, che i soldi che si accaparra la SIAE con questo sistema dell'equo compenso ammontano a circa 300 milioni di euro. 300 milioni di euro. 300 milioni, cioè sapete quanto su 300 milioni di euro? No, belli sordi. Più che belli sordi, voglio dire. No, ma la cosa bella è che la SIAE dichiara di non essere pienamente soddisfatta dai livelli del compenso. Cioè non lo ritiene equo. Cioè non lo ritiene equo ancora. Vabbè, se per questo, tra parentesi velocissima, c'è anche lo scandalo che la SIAE usava quei soldi, che altro col cazzo che tutela gli artisti, ma per comprare immobili, barche e stronzate varie. Sì, varie, chiaro, per bene. Le solite cose all'italiana. Comunque, rientrando sulla notizia che aveva, diciamo, introdotto Marco su quello che erano la pirateria della salute. Appunto, ci sono questi ricercatori non mi ricordo di quale cazzo di paese. Scozzese, Scozia. Scozia, che hanno... Sì, ho capito, un momento, cioè finisco di sputare. Allora, hanno fatto questa stampante 3D e attraverso questa stampante 3D sono riusciti a creare dei farmaci, non facendo altro che stratificando le varie sostanze chimiche che vanno a comporre i farmaci e producendo appunto quelle che sono pillole, farmaci in generale, che normalmente si comprano. Ora, quello che volevo dire io, così come abbiamo parlato prima della pirateria musicale, collegandoci alla cultura, come possiamo vedere anche in questo caso la pirateria va a difendere quello che è un altro diritto inalienabile dell'uomo, vale a dire quello della salute. Così come diceva Marco, ci sono i paesi del terzo mondo dove magari i farmaci ne avrebbero bisogno in quantità, diciamo, massicce e anche in maniera doverosa, e lì costano oltretutto di più. Fanno... Sì, ovviamente domanda e offerta, lì i farmaci costano di più perché vai a speculare sulla morte degli altri. Intendo a me che cazzo me ne faccio? Io c'ho il diesel. C'ho il diesel, insomma. Io c'ho la salute, cioè quello che muore è il povero bambino del terzo mondo. O anche addirittura, per esempio, si spendono più soldi per la ricerca sull'impotenza o la calvizie, non sulle malattie tropicali che uccidono migliaia di persone nei paesi poco sviluppati. Ma guarda, tra virgolette, fanno studi, poco sviluppati. Fanno studi universitari sui deodoranti e lo dicono pure in pubblicità, quindi la cosa è abbastanza preoccupante. No, ma quindi in sostanza quello che, diciamo, vorrei dire senza troppa presunzione di verità è che la pirateria, specialmente in quest'ultimo tempo, non sta facendo altro che restituire a noi tutti quelli che sono dei diritti che il profitto e il mercato ci stanno togliendo. Insomma, sarò sembrato troppo soviet, Natale mi perdonerà, ma in sostanza è questo. Così come la pirateria musicale, abbiamo già detto, la pirateria alla salute, figura. Inoltre va pure detto, a mio avviso, che la pirateria, essendo anche soprattutto una condivisione, la possibilità di accedere su più livelli a fonti di qualsiasi genere, a dati, a informazioni, essendo appunto uno scambio di informazione, è un vero gesto, è un vero atto di libertà. È una libertà che non solo rende possibile una nuova identità da parte delle nuove generazioni, ma soprattutto una coscienza autocritica e veramente libera, cosa che va contro quelle che sono le oligarchie di governo che ci manipolano da decenni. Sì, i dogmi del libero mercato, diciamo, è proprio questo il punto centrale. Hai centrato proprio in pieno qual era il senso della discussione. Oggi proprio un grande ritorno, potremmo dire. Un grande ritorno, sei proprio... E comunque, mentre mandiamo il pezzo, io vorrei ricordare anche uno dei più grandi pirati della storia, che era Gesù Cristo. Pensiamo ai pane e ai pesci, ne ha fatto un sacco di copie. Però le ha regalate. E noi lo adoriamo. Appunto, non le ha vendute. Pensate un pochino, se Gesù Cristo avesse venduto i pani e i pesci, cioè, di che stiamo parlando? Cioè, Pilato gli però una chi pippa. Fino ha fatto poi Gesù Cristo? Attenzione, meditiamo. Appunto. È stato preso dalla CIA alla fine, l'hanno crocifisso. È come direbbe Luttazzi, che noi, cioè voi che adorate Gesù Cristo, vi fate il segno della croce. Per fortuna non è stato impalato. Senti, chissà che gesto fareste quando, diciamo, dovreste adorare il vostro ricordare Dio. Il suo sacrificio. Che poi nuovi studi filologici sembrerebbero dimostrare che Giuda in realtà era un agente della CIA in borghese. Sì, sì. E anche la simbologia, tre chiodi, i tre strike della dopi francese. Comunque, cioè, torniamo sempre là. Ma mandiamo il pezzaccio. C'è una cosa che dovremmo dire noi sulla CIA, che è dalla nostra fonte di informazione alternativa, ossia non ciclopedia ufficiale, no, no. No, esatto. L'ufficiale Wikipedia, dai, che se il nostro Stefano Blues ce la legge ci farebbe pure un gran piacere. Leggi la prima caratteristica della SIAE. Allora, la SIAE non, e dico non, è assolutamente un'associazione di sciacalli bastardi pronti a svenarti appena infrangi anche solo il copyright sui cannelloni al sugo. Piuttosto è una simpatica e generosa combriccola di mattacchioni a cui tutti vogliono bene. Esatto. Vabbè, grazie, non enciclopedia. Comunque, ti amiamo. Il prossimo pezzo qual è, Andrea? Il prossimo pezzo è di un artista che ha un cognome secondo me significativo, James Cotton. Non a caso. Esatto. Of un G-cambi cotone con un blues allucinante. E questo è Dealing with the Devil. E lo dedichiamo alla CIA. No, lo dedichiamo proprio a Natale. Lying on my baby wasn't even excited about our wedding ring. When it come to our marriage, seemed to my devil a doggone thing, 'cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. Now you know my mother said one thing, and my grandmother said the same. Gonna keep on fooling around, change Chinese women, or even change your name. 'Cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. What kind of woman is this? Yes, yes. The meanest woman, man, that you most ever seen. She sleep with eyes big as a hand, and fights all in a dream. I soon to be sleeping with the devil. I soon to be sleeping with the devil. I soon to be sleeping with the devil. My woman don't love me no more. And if I can't carry you, baby, I'm gonna have to carry somebody else. 'Cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. E adesso, anche perché è tardino, siamo, è tardissimo, l'ora è tarda, lanciamo subito il cantante che ci canta una canzone in francese. E a chi dà? Buonasera, vi canto buonasera. L'altra canzone dei Delta V in francese, questa. In francese, non lo so se la saprete. Ha cantato i Ted Ursi una volta, e poi altri cantanti dopo. Va bene. J'aime le lasse, I fait le vela, la lasse, la sée, I favole, favole, ou lasse le va, awe, le vetu, a lasse, a la vacanza, et de la lontananza, ou l'estate fa, awe, le gadole, I will ever stay, le favole, favole, I love the day, I will live it up, I love the dance, I love the lontananza, who is that we find, no way, you got the life, I love the love. La favola, favola, alles da le wa, wele, wele, la, e la se la lontananza, e la vacanza. Mo, ora vi dedico una poesia. Adesso un attimino solo perché salutiamo, la puntata è finita, però appunto ascoltate la canzone di chiusura perché sulla canzone ci sarà la poesia. Sì, quest'ultimo colpo di coda che ci siamo inventati l'altra volta, diciamo. Esatto. E a chi è? qui Mozilla Bros, ciao ciao, ci sentiamo in replica mercoledì, solite cose, ciao, scaricate. Un bacione, ciao. Voglio ciao, alla prossima, mercoledì dalle 7 dopo, alle 8. Speriamo che ci sei la prossima volta. Cioè, certo, voglio dire, mancasse a PT. Non hai detto il tuo detto, in che sentito questo giro? A piccia la luce. Vabbè, su NVD, ma a piccia la luce. Ah, bravo, esatto. Beh. Però mancasse a PT. Adesso, su queste note, il cantante. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao. Blues on. 105.7. E vedete che questa poesia in francese, però no, attraverso questa canzone, vediamo. Inventiamo. Je m'appelle, je m'appelle, bonjour Marie. Marie, bonjour Andrea. Buonanotte, Andrea Blues. Buon nuit, Francesco. Buon nuit, Lorenzo. Buon nuit a tutti quanti. Radio Giroma. Les madame is beaucoup. Merci beaucoup, grazie a tutti. Tutto Radio Giroma. J'aime beaucoup. Bonne nuit. Madame Monsieur Andrea. Bonne nuit da Radio Giroma. Buona serata. Grazie. Ma un dolce odore di pane squadato, zucchine, cipolla, pane, formaggio, pomodoro, tante cose buone. Ezza.